notte d'amore con te. Lungo le spiagge deserte, a piedi nudi con me. Notte di luna d'estate, ultima notte d'amore, quando col vento l'autunno ritorna. Oh, che profumo di mare, oh, piove argento dal cielo. Spiagge deserte, a piedi nudi con me. Notte di luna d'estate, quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di nuovo.